I already know the answer. You are a disgrace. 也门的野中友好协会主席加迈尔。 Now to have psychologists and psychiatrists. 据说加迈尔先生在中国留学多年。 Jefferson Ming e l'arte del sorpasso di Stefano Pistolini. As the investigation continues into the terror attacks that left 174 dead in Mumbai, India, officials are suggesting that while some of the attackers were killed, those responsible for planning the attacks may still be on the loose in Pakistan. Joining us now on the phone in Canada tonight, the author of Jesus, A Story of Enlightenment, Deepak Chopra, and former Secretary of Deepak Chopra è stato appena nominato da questo giornalista televisivo americano per presentare l'intervista che gli è stata fatta da CNN, come da molte altre televisioni, in quanto indiano, ma in quanto anche personaggio organico alla scena culturale americana, perché gli americani vogliono capire qualcosa di più di ciò che è successo a Mumbai. Adesso proviamo a capire, a tradurre qualcosa di ciò che questo filosofo, medico, anche molto di più, potremmo arrivare a usare la parola ormai un po' fuori moda di Santone, ma insomma un personaggio autorevole in America, amatissimo, con decine di migliaia, centinaia di migliaia di seguaci, tra l'altro il suo ultimo libro, tanto per infilarsi in una strada, in un sentiero che conosciamo bene anche dalle nostre parti, è dedicato a Gesù, si chiama Gesù, la storia di una illuminazione, da una lettura, una interpretazione del personaggio di Gesù molto particolare, se vogliamo anche molto libera, ma di indubbio interesse. Del resto gli americani di questa storia di Mumbai qualcosa sapevano e qualcosa avevano anche detto, se è vero che l'intelligence americana aveva avvertito le autorità indiane del pericolo di un attentato via mare, secondo ABC News e anche Fox News, che abbiamo visto fino a pochi istanti fa dedicare servizi all'argomento. Alcuni luoghi, come esattamente il Taj Mahal, l'albergo che è stato il principale obiettivo dei terroristi, erano già stati indicati come possibili obiettivi degli attacchi non più tardi dell'ottobre scorso. Tra l'altro il numero di americani, di vittime americane dell'attentato non è ancora chiaro. Inizialmente si parlava di due, soltanto due, un padre e una figlia colpiti in un caffè, poi si è passato a sei. Ci sono storie anche di turisti americani prodigiosamente salvati, più che altro da personale di servizio dell'albergo Taj Mahal. Anche queste storie abbiamo seguito fino a pochi minuti fa. Del resto lo stesso responsabile del gruppo finanziario che possiede il Taj Mahal, si chiama Rajan Tata, ha spiegato che l'allerta per un possibile attentato, questo allerta americano, era stato recepito, ha dichiarato, devo dire, con un certo fatalismo, che erano state anche prese delle misure cautelative, tipo il divieto di parcheggiare le macchine nel portico d'ingresso dell'albergo, l'installazione di metal detector. Però aggiunge anche che, guardando a quello che è successo, ritiene che non si sarebbe mai stato in grado di fermare l'eccidio. Vi dicevo di Deepak Chopra, questo personaggio di grande rilievo, indiano di grande rilievo negli Stati Uniti, assai seguito e molto rispettato. Ha fatto una intervista con Larry King su CNN molto, molto pregnante, in cui ha provato a dare la propria interpretazione dei fatti, cercando anche di stillare una certa serenità, ma anche un giusto segnale di allarme. Ha detto che, a suo parere, i terroristi in questo momento sono letteralmente terrorizzati da quello che il presidente entrante Barack Obama potrà comunicare, ha la possibilità di comunicare al mondo musulmano, addirittura cambiando le carte in tavola e alienando proprio a questi terroristi quel sostegno strisciante che in buona parte del mondo musulmano, per l'appunto, in questo momento esiste. Naturalmente è una opportunità che Obama dispone, ma un'opportunità che dovrà saper cogliere, come dice Deepak Chopra, trasformando la guerra al terrorismo, che secondo lui è un controsenso, perché una guerra ha qualcosa di diverso, che deve essere essenzialmente la comprensione dei motivi alla radice di quello che sta succedendo in Oriente, perché altrimenti, avvisa, gli effetti collaterali potrebbero addirittura aggravare la situazione. Larry King gli ha chiesto se considera i fatti di Mumbai solo un inizio. Lui, Deepak Chopra, ha risposto che effettivamente esistono tutte le potenzialità, le possibilità che vadano presto in scena delle carneficine ancora peggiori, ma che possono essere evitate, che bisogna rendersi conto che ci sono 1.800.000.000 di musulmani nel mondo, che questa è la religione che cresce più rapidamente, ma che l'India del resto sta facendo i conti anche con altri generi di estremismo, a cominciare dall'estremismo indù, che internamente, dal punto di vista dei problemi con cui l'India deve fare i conti, forse ha addirittura la priorità. Ma allora, dice ancora Deepak Chopra, bisogna capire da dove vengono fondamentalmente i mezzi che permettono che tutto ciò vada in scena. Insomma, chi è che sta finanziando queste operazioni? Da dove vengono quei soldi? Che ruolo noi stessi intesi come occidentali possiamo avere in tutto ciò? Dove finiscono i petrodollari che entrano nei paesi arabi? Come possiamo accertare che uso ne viene fatta da parte dei grandi capitali arabi? Bisogna stare attenti, conclude Deepak Chopra, nel far sì che un'operazione condotta malamente, condotta senza le giuste precauzioni, finisca per colpire le persone sbagliate, con il risultato di convertire i moderati in estremisti. Ma aggiunge ancora questo filosofo, questo pensatore, a cui gli americani dedicano rispetto e attenzione, penso ancora che Barack Obama abbia davvero una grande opportunità, un'opportunità che è anche una sfida, un'opportunità nella quale dovrà mostrare la propria creatività. E a margine di tutto questo vi riferiamo una indiscrezione di cui parla CNN in una notizia uscita poco fa. Poi torneremo a Mumbai con invece notizie di prima mano che siamo in grado di fornirvi attraverso uno dei nostri interlocutori. Ma prima è uscita questa notizia al termine di un congresso chiuso i cui risultati non erano destinati alla pubblicazione, ma di cui CNN è entrata in possesso, di quella che si definisce la Commissione per la prevenzione delle armi di distruzione di massa e della proliferazione nel terrorismo, quindi un incontro tra addetti ai lavori estremamente specializzati. Si dice che entro il 2013 è possibile che attentati del genere di quello che è andato in scena a Mumbai avranno una base biologica, una base chimica, verranno adoperate armi biologiche per fare operazioni di questo genere, ed è assai più probabile l'utilizzo di armi di questo genere, la cui diffusione sta crescendo rapidamente, dell'utilizzo di armi nucleari. Queste sono le principali, questa è la principale conclusione raggiunta dalla Commissione. Il rischio di armi nucleari usate oggi sta crescendo, non sta diminuendo, ma è stato superato dalla maggiore facilità di accesso da parte di unità e di gruppi terroristici di armi di generazione e di formato diverso, come per l'appunto le armi biologiche, la più nota delle quali, tristemente nota delle quali, è l'antrace, no? Che è il prodotto naturale di animali morti, a suo uso delle terminologie molto banali, insomma, ma agenti patogeni di questo genere sono disponibili e tendono ad esserlo sempre più. Bene, una breve pausa e poi ascolteremo invece un amico di Jefferson, ovvero Beniamino Natale, corrispondente da Pechino dell'ANSA, che dopo essere stato per molti anni corrispondente dall'India, vi è tornato in questi giorni sull'onda dell'attentato a Mumbai, della vera e propria guerra urbana a Mumbai, e ci darà di prima mano la propria versione dei fatti. Allora, mettiamoci in contatto con Beniamino Natale, ci abbiamo parlato pochi istanti fa, è a Mumbai, vi resterà fino a domani, ci ha dato le ultime informazioni, soprattutto sulla base della propria esperienza, propria conoscenza del territorio della città dove ha lavorato come giornalista per molti anni. La prima cosa che gli abbiamo chiesto è che situazione naturalmente ha trovato a Mumbai. Beh, la situazione è che la città ha ripreso da ieri, direi, sta riprendendo gradualmente la vita normale anche a Colaba, che è proprio la zona turistica, quella colpita direttamente dagli attacchi, e hanno riaperto i ristoranti, compreso quello Leopold Café, che è quello che è stato attaccato, scuole aperte, uffici aperti, il traffico è ritornato quello della Bombay di una volta, cioè impossibile. Rimane la rabbia, rimane una sensazione amara in bocca alla gente che bisogna fare qualche cosa, quindi si mobilitano, hanno fatto queste veglie, addirittura dai club, che sono i posti della borghesia per bene, sono partite le proteste, i cortei con i cartelli, tutti vorrebbero fare qualcosa e nessuno sa bene cosa, quindi c'è un po' quest'area di protesta contro il terrorismo, contro il Pakistan, contro i politici, quindi la gente si sente sotto tiro, ingiustamente, e si domanda cosa fare, ma sa di dover fare qualcosa. Detto questo, in questi giorni, a partire da domenica, ho visto anche molto la volontà di riprendere la vita normale. Giusto oggi mi sono andato a comprare un paio di ciabatte in un negozio e così ho scambiato due battute col ragazzo che me le vendeva, e lui ha detto: che possiamo fare? Torniamo al lavoro e riprendiamo la vita normale, perché è l'unica cosa che possiamo fare per combattere queste cose che succedono. Paura? No, non c'è paura. Questa è la voce di Beniamino Natale, corrispondente da Pechino dell'Ansa, però in trasferta a Mumbai, da dove ci sta aggiornando sulla situazione che ha trovato in città. Seconda notizia che ci dà, che ci commenta ora Beniamino, è quella con cui abbiamo aperto la puntata di oggi di Jefferson, ovvero il fatto che i servizi segreti americani avessero nel mese di ottobre allertato le autorità indiane attorno alla possibilità dell'attentato, che poi è andato regolarmente in scena, addirittura indicando quali potevano essere gli obiettivi, e tra questi c'era per l'appunto l'albergo Taj Mahal. Sentiamo come legge questa notizia Beniamino Natale. Questa è stata l'ultima raffica di tutta una serie di rivelazioni che sono state fatte nei giorni scorsi dai vari giornali o televisioni, mezzi di informazione indiane, da coloro che hanno relazioni dirette con i servizi segreti, perché tutto da lì viene, nessuno parla col terrorista catturato se non quelli che lo interrogano, gli agenti dei servizi, quindi tu, l'unica fonte di tutte le informazioni è quella. Io sinceramente da giornalista ho qualche dubbio, perché io sono abituato che una notizia deve essere confermata da almeno due o forse tre fonti, soprattutto se è così grave, e queste non hanno nessuna verifica di nessun tipo. Poi è venuta questa conferma autorevole dagli Stati Uniti e quindi ci devo credere. È un problema grosso, cioè l'India è un paese intanto in cui la gente è abituata alla libertà, la gente è abituata a muoversi liberamente. Io sono sicuro che la stessa gente che oggi protesta, se domani mettessero dei controlli seri davanti ai ristoranti, quando vai la sera a cena, o agli aeroporti, o nelle stazioni che a Mumbai milioni di persone usano perché è il modo migliore di trasporto, il treno interno, che circa sarebbero i primi a protestare, e loro stessi, alcuni me l'hanno detto. Ma a tuo giudizio c'è il rischio di questo giro di vita in nome della sicurezza? Secondo me no, io sinceramente penso che non succederà niente, ci sarà una grande dibattiti, le televisioni continuano a cavalcare questa ondata un po' populista, per adesso non vedo niente perché l'unica cosa sarebbero dei gesti di grande coraggio, di grande lungimiranza che questa classe politica non ha. Comunque il Pakistan è il grande nemico, mi sembra di capire, sì, no? Sì, in questa storia. Il Pakistan è il grande nemico per il Kashmir, ma il gesto di grande coraggio vuol dire diamo il Kashmir ai Kashmiri, rinunciamo alla valle di Srinagar, finiamo questa storia. Questi che sta enunciando Beniamino Natale sono i tormentoni che attraversano gli ultimi 30-40 anni della storia indiana, ma ascoltiamolo ancora perché a questo punto allarga il discorso per l'appunto a Pakistan, poi anche ad Afghanistan e naturalmente a Cina, che è attualmente la sua base di lavoro. La situazione del Pakistan, che è una tragedia trascurata perché si è sempre messo a fuoco l'Afghanistan senza mai allargare un po' l'obiettivo e vedere tutto quello che c'era dietro, che in gran parte è il Pakistan. E chi è il Pakistan? Cioè, il governo dice così, ma il governo chi rappresenta? I servizi segreti militari, quanti ce ne sono e quante fazioni ci sono? Insomma, è un paese che sta veramente in una brutta situazione, ormai incancrenita. Musharraf è stato tolto di mezzo anche per i suoi stessi errori, Benazir è stata assassinata e anche lì non vedo nessuno. Insomma, cosa fare? Tutti pensano di dover fare qualche cosa, ma che cosa fare in una situazione come quella del Pakistan, dove sicuramente i servizi segreti militari usano questi guerriglieri della Guerra Santa, questa galassia della Guerra Santa, per i loro fini che sono disturbare l'India in Kashmir e tenersi almeno una parte dell'Afghanistan o comunque avere controllo su una larga parte dell'Afghanistan. E sicuramente ci sono alcune bombe nucleari che gli americani dicono di sapere dove stanno, io spero che sia vero, ma c'è un governo debole, e insomma questa è la situazione, che cosa fare? Veramente è difficile, per questo tutti sono prudenti. A proposito delle bombe atomiche, Beniamino, qualcuno ha detto, non ricordo chi, che la guerra tra India e Pakistan è una guerra particolare nella quale non è da escludere l'uso delle armi nucleari. È una lettura corretta della situazione? A me non sembra che si vada verso una guerra, a me ti dico, mi sembra invece che si vada verso un facciamo finta di niente, verso un continuare in questa situazione, che è la situazione in cui c'è il Pakistan che si sta disfacendo, c'è l'Afghanistan in quella situazione in cui sta, c'è l'India che continua ad avere questa minaccia e continuerà ad averla, perché sai, prendere quattro matti, adesso sicuramente sarà vero come dicono tutti, perché lo dicono tutti, che compresi gli americani, che c'è stata questa leggerezza da parte del governo indiano, ma insomma è facile mandare due ragazze con due Kalashnikov in un bar e ammazzare 40 persone. Questi giorni in India vedo che tutti si agitano, mandano email, scrivono una cosa su Facebook o semplicemente telefonano all'amico, perché tutti capiscono che bisogna fare qualcosa, ma nessuno sa cosa. E la Cina in tutto questo che fa, se fa qualcosa? Io, dalle sensazioni che ho avuto parlando con alcune persone ieri a Pechino, mi hanno detto per esempio che la Cina è più preoccupata di quello che succede in Thailandia rispetto a quello che succede in India. Sicuramente è preoccupata, adesso non so quanto, sì, sicuramente è preoccupata della Thailandia, ma sicuramente già in passato era preoccupata dalla direzione che sta prendendo il Pakistan, che è un paese con la quale ha ottimi, è un alleato del Pakistan. Se ipoteticamente si creasse una situazione nella quale un intervento internazionale di guerra in Afghanistan e contemporaneo aiuto Afghanistan e Pakistan, perché ormai la situazione è così, cioè l'Afghanistan deborda in Pakistan, considerare che tutta la zona ovest del Pakistan è come l'Afghanistan, è forse peggio. Se si creasse una cosa di intervento internazionale, non solo militare, ma anche di aiuto civile, la Cina potrebbe fare la sua parte. Oh yeah, all right, this one's called Rebel Rebel. Let's go. Bianca. Il passaggio di consegne. Thank you for this honor. If confirmed, I will give this assignment, your administration and our country my all. I also want to thank my fellow New Yorkers who have for 8 years given me the joy of a job. Questa voce di Hillary Clinton, ieri ve l'abbiamo trasmessa in diretta, abbiamo chiuso il programma mentre Hillary pronunciava solenne, commossa, veramente partecipativa, insomma, il suo breve discorso di ringraziamento e di accettazione per la carica conferitagli da Barack Obama come nuovo segretario di Stato, sempre se naturalmente passerà gli esami. Esami non finiscono mai, credo, per la famiglia Clinton, ma in particolare in questa occasione saranno abbastanza spinosi. Poi abbiamo letto questa mattina un editoriale del New York Times intitolato Mr. Obama's Team, dove devo dire, insomma, conoscendo anche il discreto cinismo, almeno in politica, dei giornalisti di questo quotidiano, si leggono parole veramente grosse, insomma, parlano di sollievo nell'assistere all'allestimento progressivo dell'amministrazione di Barack Obama, parlano di grandi personalità, parlano di personalità con capacità di essere autorevoli e al tempo stesso di dichiararsi non d'accordo con il presidente, che tutte caratteristiche mancanti nella amministrazione George W. Bush e che va a concludersi. Parla di della possibilità che siano state trovate delle personalità capaci di essere dei closers, che dopo aver pensato un po' abbiamo deciso di tradurre sportivamente come dei finalizzatori, gente che la butta dentro, come si dice in termini calcistici. Poi però alla fine l'unica tirata d'orecchi di questo pezzo decisamente complimentoso nei confronti delle scelte dell'amministrazione sono dedicate non tanto alla famiglia Clinton, devo dire, quanto al personaggio dell'ex presidente Bill Clinton, dicendo sì, ci saranno comunque questi esami per vedere se la compatibilità con la carica esiste e per favore chiederemo anzi un favore al presidente Clinton, no more speaking fees from Kazakhstan, niente più quattrini incassati dal Kazakistan. A questo punto, anche dopo aver letto il suo articolo sul Sole di oggi intitolato Bill, l'uomo da 500 milioni di dollari, abbiamo chiamato Mario Platero da New York, che evidentemente anche lui nutre qualche sospetto, però la linea adesso è caduta, quindi lo richiameremo tra poco per interrogarlo al riguardo. Comunque vi dicevo, questo editoriale è assolutamente positivo nei confronti dell'allestimento del team di Obama. Si conclude con la frase le scelte annunciate lunedì sono una partenza molto forte. Tra la l'altro è giunta anche la notizia poco fa che ci sarebbe l'intenzione di nominare Daniel Kurzer, ex ambasciatore statunitense in Egitto e Israele, nuovo inviato speciale per il Medio Oriente dell'amministrazione Obama. Ne parla il quotidiano israeliano Haaretz, ma ci torniamo più tardi perché abbiamo di nuovo Mario in linea. Mario, buongiorno, buon pomeriggio. Eccoci, buon pomeriggio a voi. Parlavo del tuo articolo su Bill Clinton e sul fatto che in questo complimentoso editoriale New York Times l'unica tirata di orecchie arriva alle fatturine che la Clinton Foundation stacca al Kazakistan un po' troppo con disinvoltura, no? È in un certo senso l'unico punto oscuro, cono d'ombra. Sì, direi l'unico cono d'ombra in questo editoriale del New York Times, peraltro giustamente elogiativo di quello che sta facendo Barack Obama in termini di nomine e soprattutto in termini di organizzazione e di tempismo. E insomma, il Kazakistan resta un'ombra su Bill Clinton. E il fatto che l'ex presidente abbia dei rapporti non solo col Kazakistan ma con molti paesi che hanno donato soldi alla sua fondazione, l'Arabia Saudita, il Kuwait, il Qatar, il Dubai, il re del Marocco e così via, è chiaro che crea un cono d'ombra. Però direi sono fattori così un po' come dire marginali, che riguarderanno le audizioni al Senato e che naturalmente vanno in qualche modo chiarite, che riflettono, ti dirò, anche un po' di polemica interna agli Stati Uniti. I fedelissimi di Barack Obama, quelli che lo hanno appoggiato fin dall'inizio, quelli che si sono schierati con lui così sull'onda dell'idealismo, sono un po' disturbati dal fatto che questo presidente poi, invece di portargli il cambiamento che loro sognavano, e dunque un cambiamento davvero radicale e assoluto, si sia appoggiato a personaggi che sono un po' i soliti noti. E di questo direi Barack Obama ha parlato con grande pragmatismo e con grande lucidità. Il cambiamento, ha detto, sono io. Certo. Dopodiché, per portare il cambiamento ho bisogno di persone capaci, di persone esperte, e voglio prendere i migliori, e per me questi sono i migliori. In effetti è difficile dargli torto. Lui stesso si offre come garante, no? Dice, ha citato Truman, ha detto al capolinea, poi ci sono io a staccare il biglietto. Esatto, the buck stops here, insomma, certo, no? Quindi certo, alla fine il capolinea è qua. E ti dirò che proprio su Hillary Clinton, che così ha suscitato molte polemiche, sappiamo quanti rancori ci furono durante la campagna elettorale, quanto la base fosse schierata contro di lei per i sostenitori di Obama e contro di lui per i sostenitori di Clinton, della Clinton, insomma, alla fine è una scelta che va a chiudere un cerchio. Mi ricordo durante la campagna elettorale si diceva, ma insomma, Barack Obama certo rappresenta così questo aspetto ideale, questo quando eravamo ancora nelle primarie, però si diceva, immagina Barack Obama seduto dall'altra parte del tavolo con Vladimir Putin davanti. Certo. E questo desta un po' di preoccupazione, perché è una persona molto per bene, però non vedi la persona molto aggressiva, la persona dura, la persona in grado almeno superficialmente di essere decisa contro una personalità forte come, tanto per fare un esempio, quella di Putin. Mentre Hillary, si diceva, se è seduta davanti a Putin, Putin un po' di paura ce l'ha, proprio perché sappiamo la grinta che ha Hillary Clinton. E quindi questa scelta, direi, da quel punto di vista è ideale, perché in effetti Hillary è una donna molto capace, è una donna dura, è una donna che è in grado di tutelare e difendere gli interessi degli Stati Uniti, facendo il suo ruolo di segretario di Stato e lasciando a Barack Obama il ruolo di presidente, che poi va, diciamo, a mettere la firma una volta che gli accordi sono fatti, che i problemi sono risolti, o interviene proprio laddove c'è da sbloccare l'ultima situazione. Ma c'è bisogno di persone operative in grado di gestire i loro ministeri e soprattutto situazioni internazionali che sono davvero oggi complicatissime e pericolosissime. Quindi questa squadra per la sicurezza, direi, risponde, certo, a questa esigenza, con Jones alla sicurezza nazionale, con Gates, un repubblicano che resta al Pentagono. È geniale questo Barack Obama, perché si copre dappertutto. Chi certo, potrà dirgli nulla? Ma del resto la sua presidenzialità, non so, mi sembra sia confermata anche dal fatto che appunto ai tempi delle primarie, ricordi quando si ragionava sul fatto ma portare qualsiasi forma di legame con Hillary riporterebbe Bill attorno alla Casa Bianca, e come si può pensare che possa volere Bill alla Casa Bianca? In fondo questa sembra veramente una preoccupazione del passato. Tra l'altro Clinton fa sapere di non essere, almeno ufficialmente, neanche interessato a questo passaggio familiare di seggio del Senato, abbiamo letto poco fa. Assolutamente, no, Bill Clinton continuerà a gestire la sua fondazione, è felice per quello che è questo nuovo straordinario incarico per la moglie, e devo dire, cinicamente parlando, forse potrà anche permettersi di rinunciare certo, a contributi di alcuni stati stranieri che possono essere sospetti nel momento in cui tua moglie è segretario di Stato, perché sa che tutto sommato c'è un grande investimento nel futuro. Già mi immagino nel giro di qualche anno, fra 4-5 anni, se Hillary avrà lasciato, a quel punto la Clinton Foundation sarà la Bill and Hillary Clinton Foundation. Altro che Bill Gates. Senti, per concludere, altro che Bill Gates. so che stai seguendo da vicino quello che vediamo anche sui teleschermi americani, ovvero questo incontro che il presidente eletto sta avendo con i governatori, dove tanto per cambiare si parlerà con i governatori degli stati americani, dove tanto per cambiare si parlerà di soldi, no? Si parla di economia, l'economia è l'elemento dominante, sicuramente dominante. Su 4-5 apparizioni pubbliche, su 5 apparizioni pubbliche di Barack Obama, 4 sono dedicate all'economia, quella di ieri appunto alla sicurezza nazionale e alla politica estera, e direi che ci sono due elementi, se mi consenti. Il primo, politico. Certo. Beh, insomma, Obama è già presidente a tutti gli effetti, e questo direi è un evento straordinario che non si era mai verificato prima nella storia in queste proporzioni. Oggi è lui che parla con i governatori, che illustra i suoi programmi per il futuro, che già comincia a misurare le coordinate per gli interventi, che misura i rapporti con i singoli governatori, con i singoli stati, chi ha bisogno di che cosa, e quindi si sta già parlando di politica, di economia, si stanno già prendendo delle decisioni. In altre amministrazioni il presidente eletto in questo momento così vagamente stava pensando ai nuovi ministri che doveva scegliere, certo, e se la prendeva molto più con comodo, e quindi è straordinario questo processo. E devo dire, bisogna dare anche atto e credito al presidente uscente Bush, che con straordinaria così generosità, se vogliamo, si è fatto indietro, non interviene, lascia lo spazio a Barack Obama, anche lui si rende conto di quanto drammatica sia la situazione. Drammatica anche, torniamo al punto, sugli stati. E gli stati oggi ovviamente soffrono, molte responsabilità fiscali ricadono su di loro, anche su programmi federali, per esempio il Medicaid, che è l'assistenza sanitaria per i più poveri, è coperta dal governo federale, ma è coperta con dei bilanci precisi. Nel momento in cui crescono i disoccupati, questi si rivolgono alle autorità statali che contribuiscono a questi programmi per farsi dare dei soldi che spesso non ci sono. Abbiamo sentito Randall, il governatore della Pennsylvania, che ha parlato poco fa, che ha detto che loro hanno già fatto dei sacrifici enormi, tagli per 500 miliardi di dollari. E dunque cosa chiedono questi governatori? Cosa chiedono al presidente eletto Barack Obama? Gli chiedono posti di lavoro, gli chiedono investimenti infrastrutturali, gli chiedono di creare le condizioni per cui gli stati possano rimettersi in moto, in piedi e poter lavorare. Non gli chiedono, ha precisato proprio Randall, dei regali, e Barack Obama ha risposto naturalmente in questo senso. Bene, grazie a Mario Platerio. Tra l'altro tutto ciò che ci ha raccontato è un'anticipazione del pezzo che potrete leggere domani proprio sugli argomenti in questione, su questo incontro di Barack Obama con i governatori degli stati sul Sole 24 Ore. Ma non so se davvero, come anche con Mario Platerio discutevamo, l'America ha trovato la soluzione ai suoi mali. Di sicuro ha trovato, caro Emiliano, un uomo che fa partire provvedimenti prima ancora di averne il titolo per farlo. CNN è appena uscito con un articolo di pochi minuti fa, secondo il quale i famosi tagli sulle tasse alla classe media sarebbero operativi subito, cioè speriamo che l'abbrivio prosegua pochi minuti dopo il 20 gennaio. Pochi minuti dopo l'entrata nello studio Valley di Barack Obama. Ma vediamo un po' di notizie invece dall'altra parte del mondo. Allora, tanto per restare in scia con quanto ha detto Mario Pratello prima, l'argomento Hillary Clinton, anche dalla Cina arrivano le congratulazioni per Hillary Clinton nominata segretario di Stato americano. Forse c'è anche il ricordo dei bei tempi andati con Bill Clinton, che credo rimanga il presidente americano più apprezzato in Oriente, certo. E a Pechino, e addirittura con un'enfasi strana per un cinese, il ministro degli esteri cinese Yang Jiechi ha detto: non vediamo l'ora di lavorare con lei. Quindi è interessante comunque vedere lei, i capi cinesi alle prese con Hillary. Tra l'altro credo che Hillary Clinton ieri abbia proprio detto che invece proprio quelle tra Stati Uniti e Cina saranno le relazioni bilaterali più importanti del secolo, e credo che anche lo staff economico appena nominato da Obama abbia un interesse particolare, un'attenzione privilegiata nei confronti della Cina. Per esempio l'altro giorno leggevo sul Corriere Economia che c'è invece preoccupazione per le attenzioni nei confronti dell'Europa, che potrebbe essere un po' discriminata in questa sfida ravvicinata tra Cina e Stati Uniti. Non in prima fila. Ieri abbiamo dato una rassegna stampa un po' frivola, che ci ha seguito, se lo ricorderà, insomma corse ippiche e altre corbellerie del genere. Oggi purtroppo il tono delle notizie che arrivano dalla Cina sono più drammatiche. Per esempio c'è stata una piccola strage in una scuola secondaria cinese con 11 studentesse che sono morte soffocate per le esalazioni a causa di un fuoco che avevano peraltro acceso per riscaldarsi, quindi notizia davvero tragica, avvenuta nella provincia settentrionale del Shaanxi. Un'altra ragazza è in gravissime condizioni. L'agenzia di stampa cinese Xinhua non precisa però se la stanza fosse un'aula della scuola oppure un dormitorio. Allora, volevo completare la notizia che stavo dando prima, quando era caduta la linea con Mario Protero da New York. Sembra quindi probabile questa nomina di Daniel Kurzer, ex ambasciatore americano in Egitto e in Israele, come nuovo inviato speciale per il Medio Oriente dell'amministrazione Obama. Esistono dei precedenti interessanti, la notizia arriva dal quotidiano israeliano Haaretz, esistono dei precedenti interessanti tra Obama e Kurzer. In pratica Kurzer sarebbe stato l'orchestratore del viaggio in Medio Oriente di Barack Obama, l'uomo che seppe guidare al meglio l'attraversamento non solo del Medio Oriente ma anche di Israele, di un Barack Obama in quel momento proprio all'avvio del rush finale delle presidenziali. Peraltro lo stesso Kurzer scrisse il discorso pronunciato in Israele con grande successo e grande eco da Barack Obama, e come dire, certi amici non si dimenticano. Tra un po' siamo quasi arrivati a 3 mesi dall'inizio dello scandalo del latte alla melamina, era l'inizio di settembre, insomma ci siamo, e ieri sera, quindi per noi è praticamente già la giornata di oggi, il Ministero cinese della Salute ha fornito dei nuovi dati ufficiali sulle dimensioni dello scandalo dell'intossicazione dei bambini per il latte alla melamina, e i dati fanno davvero impressione. Infatti il Ministero cinese della Salute parla di 294.000 bambini cinesi che hanno accusato dei malori dopo aver ingerito la sostanza tossica incriminata, cioè la melamina, che è una resina davvero velenosissima. Quindi siamo quasi alla soglia dei 300.000 bambini, ancora 154, per fortuna non 154.000, sennò sarebbe stata veramente un'ecatombe, sono ancora in gravi condizioni. Con grande trasparenza, con grande schiettezza peraltro, il Ministero della Salute cinese ha anche ammesso che il bilancio delle vittime, che finora parla di 4 bambini morti, potrebbe aumentare, visto che ci sono altri 6 bambini che sono morti dal 10 settembre scorso, e quindi la loro morte potrebbe essere causata proprio dalla melamina. Quindi insomma rimane ancora una situazione di grande allarme, di grande tensione, mentre ci sono anche le proteste dei genitori di bambini intossicati, e qualcuno ha fatto partire anche già le azioni legali. non contate appunto su Bill Clinton che torna al Senato, insomma, tra l'altro è successo un paio di volte, ma è un caso piuttosto strano di un presidente, no, che rientra poi al Senato. Forse altro da fare, anche di più interessante. Ma poi comunque ormai appunto segue una strada ben precisa e con una visione globale con la sua fondazione, che è a tutti gli effetti una corazzata della, non solo della filantropia, ma anche di una certa visione lobbistica del mondo sotto l'ombrello del politicamente corretto. Quindi il nome più accreditato in questo momento per prendere il posto di Hillary Clinton sarebbe quello di Andrew Cuomo, ministro statale della giustizia e figlio dell'ex governatore Mario Cuomo, uno tra l'altro dei molti nomi che potrebbero prendere il posto di Hillary Clinton dal forte sapore italiano. Ancora notizie, Emiliano? Ma c'è soltanto la Cina, altro argomento che va per la maggiore in questi giorni, che sapete la Cina ha rinunciato ad incontrare l'Unione Europea a Lione per ritorsione, perché la Francia invece incontrerà il Dalai Lama. La Cina comunque rassicura, fa sapere che non ci saranno conseguenze nei rapporti commerciali con la Francia. Vedremo se poi alle parole e la Gran Bassi seguiranno. Ma io non ho capito questa cosa degli incontri col Dalai Lama, come si accede? Nel senso, com'è che la Gran Bassi incontra? Lì bisogna chiederlo a lei, non lo so come sia arrivata. Gli ha regalato la sciabola il fioretto, perché lei fa il fioretto e la maschera. No, c'è una come dire, una forse strada bisogna, per alle Olimpiadi sarebbe sul podio, che è un accesso facilissimo. Ho capito, non ce la facciamo. C'è anche Schwarzenegger, tra l'altro, tra i governatori. No. Lui invece è con Obama nell'altro appuntamento. Fa quasi rima. Nell'altro appuntamento di giornata che ci ha raccontato Mario Platero, governatori alla presenza del presidente eletto per vedere come vanno le cose, vedere cosa possono ottenere per i singoli stati. In prima fila il repubblicano Arnold Schwarzenegger, che ha dichiarato ufficialmente lo stato di emergenza fiscale della California e si è appellato al buon senso dei suoi deputati e senatori per fermare l'emorragia finanziaria che rischia di svuotare le casse dello Stato. Già a febbraio la California è misteriosamente, cronicamente, ma certamente sempre in rosso. Non ho parole, non so che dire. Però risulta sempre al sesto o settimo posto nel mondo per quello, PIL, non però capisco. Non c'è mai una lira. Vedremo se la bacchetta magica di Obama troverà soluzione anche da quelle parti. Ve le racconteremo qui a Jefferson Ming, dove ci sono io, Stefano Bistolini, c'è Emiliano Enrico, in regia Valerio Rocchetti a Roma, Pietro La Corte a Milano. Un indirizzo mail: jeffersonming@radio24.it. Una replica stasera alle 9, una diretta come sempre attorno alle 4 qui da Radio 24 domani.